Ciao, come va? Ma abbastanza, troppo caldo. Mamma basta, mia, guarda, un basta. Cazzo di caldo. A Milano fa 38.000 gradi Fahrenheit, come 451 Fahrenheit, là, i libri. I libri qui. Mamma fuoco, mia, si prendono cose. Fuoco i libri da soli, tipo, manco li leggiamo. Guarda, io ieri pure io stavo tipo super impanicato così e stavo a vedere queste persone, stavano a mangiare un sacco di roba. Ma che film hai visto? E mezza ma di cosa sera. Stai dicendo? Sì, a mezza al cemento, si squagliava il cemento, 32 gradi, questi qua stavano a fare un torneo di mangiare cose. Un torneo? Ma dove stavi? Ma cosa ma dove stavi? Ma tu dai. Dove stavi? E tu a casa ti vedi tipo Italia's Got Talent, X Factor, Chi vuole essere milionario? Striscia la notizia, ma non capisci niente. Vai, in ticinese ieri c'era Scarpetta's Got Talent, il torneo mondiale di scarpetta nel piatto. Ma che è di pulizia? Scarpetta nel piatto, scarpetta nel piatto, la pulizia del piatto, sì, con il pane l'hanno fatto ieri qua in ticinese. Pensa un po' che la persona che ha vinto tipo era quella che aveva meno quotazione di tutti, che ha scommesso su sta persona, ha vinto un sacco di soldi, si è fatto un sacco di birre gratis, guarda. Ma cosa stai dicendo? Ma non ha vinto un tipo tutto grosso, super pro? No, ha vinto una compagna, ha vinto la compagna quotata di meno, e questo ci dimostra che anche se siamo dati sempre per perdenti, se lottiamo e portiamo avanti le nostre lotte con forza e combattività, possiamo vincere e ribaltare tutto. Questo però mette molta gioia, rigiri in cuore. Soprattutto dopo quello che si sono mangiati. Alla fine stavano a mangiare Wurstel con la Nutella e con la marmellata e l'olio piccante. Vabbè, questo non lo voglio sapere. Lasciamo perdere pure le domande finali. Me lo immaginavo diverso. Ma tu com'è che queste cose non le riesci tipo a sapere? Cioè, non ci sta quel programma là a Milano ogni giovedì dove escono tutte queste notizie? Ma certo, come ma si chiama? L'otto e mezzo? Fanno quelli là che palle, tipo l'otto e mezzo, sì, giovedì parlo, di giù. Mi metto della musica strana, dicono cose strane, no? Come si chiama? Ma? Ma la radio! Spinning TV. Ma che è sta canzone no, sulla radio? Infatti, fammi capire. Ma non è. No, è bellissimo, ok, grandi ma ricordi, però voglio dire, non è la sigla di Malaradio. Ma no, non avete capito niente, è la versione estiva di Malaradio. Ah, come se fossimo sul bagnasciuga, un ma po' sì, summer style. Mini, noi siamo già in vacanza, questa è la penultima puntata. Mi piace, ma quindi cioè, credi che si continuerà un po' su questo tenore con la musica? No, mo rimettiamo subito, per favore, cioè, la sigla di Malaradio, perché, cioè... Raga, mi dispiace, è noiosa. Dobbiamo sentire sempre questa di canzone. È un po' il genere di prima. Oh, ma cioè, io devo fare il DJ, ma che volete? Ma scusa, non c'era l'indice stasera, un attimo. Cioè. Sì, ma avevamo delle rimostranze sulla musica. La musica, cioè... Boh, questa sempre, ogni volta la mettiamo. Che palle, torniamo alla musica di prima. Sì, sì, dai, ma la radio stile balneare, ma però sì. L'indice lo facciamo. Poi dai, oggi diciamo che la prima puntata d'estate la musica farà schifo, diciamo. Sì, è proprio schifo. Voluto. Schifo come questa cazzo di città. Insomma, torniamo con l'indice dopo che ci è stato sottratto lo stile balneare. E, insomma, oggi iniziamo come ormai nostro solito con l'ambulatorio medico popolare che interverrà sul tema della casa. Continuiamo ai noi, appunto come nostro solito anche qui, parlando di sgomberi. Proseguiamo trattando delle sorveglianze speciali. A seguire parleremo del tema del carcere. E concludiamo sulle mobilitazioni e la repressione dei lavoratori e delle lavoratrici e poi un piccolo accenno sui cambiamenti che le Olimpiadi che ci saranno a Milano porteranno appunto in città. Vi ricordiamo che ci potete scrivere in diretta al numero 351 91 82 889, via Telegram, Signal o via SMS. Buona serata e restate con noi. A Milano è nata una nuova radio. È nata Mala Radio. Per ora il nostro palinsesto consta di una sola trasmissione, o forse già due. Ma siccome ci immaginiamo la radio come uno strumento collettivo, ci piacerebbe che voci, idee e storie si moltiplicassero. Per fortuna che a disposizione abbiamo uno streaming di 24 ore. Quindi qualsiasi gruppo o individualità che volesse fare una trasmissione, avanti pure! Scriveteci a malaradio@autistici.org. Abbiamo anche un blog, malaradio.noblogs.org. Sul blog potete trovare podcast delle puntate passate, dei ritagli dalle puntate, ma anche un calendario degli eventi. Anche tu sai fare uno spottino? Mandacelo! Radio. nostro numero è 351 91 82 889. Lì potete scriverci, ma non chiamare, mi raccomando, in trasmissione su Telegram o Signal. Oh, in trasmissione siamo più energici di così, eh? Ci sentiamo giovedì su Mala Radio. Buonasera a tutti, 20:48, ritorniamo dalla fornace milanese, oltre 30 gradi stasera, proviamo a fare una Mala Radio stile balneare. La musica, la canzone che abbiamo messo prima era Garrix con Animals, ora invece passiamo alla consueta intervista con un compagno dell'ambulatorio popolare. Ricordiamo la campagna dell'ambulatorio popolare: quando c'è tutto c'è la salute e noi vogliamo tutto. Ricordiamo anche il blog ambulatoriopopolare.roblogs.org e oggi parleremo appunto con questo compagno dell'argomentazione della casa. Ciao, ci senti? Ciao, ciao a tutti. Allora, per poter abitare in un alloggio confortevole provvisto delle comodità di base è fondamentale per vivere in salute. Spesso ci capita di vedere che in contesti abitativi sovraffollati o con difficile accesso alle forniture le malattie si sviluppano e si propagano più facilmente. Per ritenere un alloggio salubre però non è sufficiente l'attacco alle utenze. È necessario anche accesso all'acqua calda, uno spazio per cucinare, possibilità di conservare gli alimenti, un letto dignitoso. A Milano moltissimi alloggi, sia pubblici sia privati, versano in pessime condizioni per la noncuranza e per la volontà speculativa dei proprietari o degli enti gestori, esponendo spesso chi ci vive, senza avere altre possibilità abitative, a un rischio maggiore di contrarre malattie. In questi casi l'assistenza medica non basta a intervenire sulle condizioni di salute della persona ed è inutile imbottire di farmaci per i reumatismi chi vive in un sottoscala con infiltrazioni di umidità. In questi anni abbiamo visto soprattutto come le politiche abitative attuate in città hanno portato sempre più persone a fare i conti per necessità economica con tutto questo. Ricordiamo tra l'altro anche il piano casa attuato dal governo Renzi, il cosiddetto decreto Renzi-Lupi, che impedisce agli occupanti l'allaccio all'utenza e una regolare residenza, senza la quale è impossibile, tra le altre cose, richiedere il medico di base. Da un lato quindi queste persone vengono prima messe in condizione di ammalarsi più facilmente e dall'altro vengono limitate nella loro possibilità di accedere alle cure. Questo, tra l'altro, senza voler considerare il risvolto psicologico del rapporto tra casa e salute, che ha a sua volta ripercussioni sia sul benessere fisico, senz'altro si vive meglio né più tranquilli al caldo che per care al freddo. Per noi, per approcciare il tema alla salute in modo ampio ed efficace, è fondamentale rivedere le politiche abitative dalle basi. È impensabile avere una popolazione sana se una sempre più larga parte di essa vive in luoghi non salubri. Una politica volta ad alleggerire la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe puntare a garantire anche l'accesso universale a un alloggio salutare indipendentemente dal reddito. Volevamo anche aggiungere una cosa. Sulla bibliografia scientifica compaiono spesso articoli scientifici legati alle questioni dell'abitare, ma sono sempre studi e numeri che vanno a riguardare il più delle volte tematiche tra virgolette classiche di studio dell'housing o dell'abitare, che sono i parametri igrometrici, i ricambi d'aria, la sicurezza degli impianti di luce e gas, mentre latitano studi effettivamente su quello che è l'influenza sulla salute delle persone nell'abitare in luoghi precari o comunque insalubri. In mezzo però a questa marea abbiamo trovato un unico studio che tra l'altro si autodefinisce il primo studio su una coorte di soggetti materialmente deprivati, che è uno studio eseguito e pubblicato sulla rivista Epidemiologia e Prevenzione, eseguito a Firenze basandosi su 2.777 ricoveri in riferimento a circa 4.800 persone di circa 1.500 nuclei familiari che erano richiedenti casa popolare durante il periodo 2001-2005 a Firenze. Rispetto ai dati medi della popolazione fiorentina, anche in riferimento ad altri studi su cosiddette popolazioni svantaggiate, si sono osservati degli eccessi di ospedalizzazione per entrambi i generi, quindi maschi e femmine, sia per malattie mentali, sia che per malattie respiratorie e sia per tumori. Valutati invece degli eccessi di ricoveri negli uomini per malattie alle ghiandole endocrine e nelle donne per traumatismi e avvelenamenti. Cosa ci dice anche questo studio? A parte che ci dice che è il primo studio su una popolazione, tra virgolette, scelta materialmente deprivata, perché in genere soggetti comunque le popolazioni, soggetti subalterni, proletari, finiscono alle volte magari negli studi, ma finiscono ovviamente in mezzo a una corte ben più ampia di soggetti che fanno parte di tutte le classi sociali. Questo tanto si autodefinisce, questo è un primo dato. Il secondo, secondo me, è che tutti quegli eccessi specifici per cause di ospedalizzazione confermano comunque l'importanza di vivere in ambienti dignitosi e salubri per ridurre le disuguaglianze di salute. E le popolazioni più svantaggiate comunque presentano dei livelli di salute peggiori, in questi casi il studio proprio lo dimostra, sia in termini di mortalità che di morbosità. Per chi non mastica il linguaggio scientifico, la morbosità è proprio il danno che riesce a influire la malattia anche sulla qualità di vita della persona, di tutte queste patologie, e influisce anche in termini di aspettativa di vita libera da disabilità. Quindi tra i vari fattori sociali, il luogo di vita e con esso l'ambiente esterno in cui la casa è collocata, si potrebbe ritenere tra le varie cause determinanti della salute quella che maggiormente addirittura influisce sullo stato di salute delle persone. E io, se volete, poi vi aggiungo anche alcune riflessioni che riusciamo a fare noi un po' dall'ambulatorio, un po' come osservatorio, perché la questione di dove le persone vivono certo. È tra quelle su cui cerchiamo sempre di entrare un po' anche nel dettaglio per capire bene effettivamente quali sono le situazioni in cui si trovano le persone che si riferiscono a noi, e abbiamo una visione comunque di dal numero di soggetti che sono costretti a vivere in situazioni quasi sempre di sovraffollamento, quando anche a vivere in seminterrati, anche in quei casi alle volte anche in quel caso di sovraffollamento, e comunque in condizioni in cui magari condividere un letto, per cui c'è una parte della casa che tra virgolette dorme di giorno e un'altra parte che dorme la notte, alternandosi il sonno perché non hanno altra possibilità, perché non ci sono letti sufficienti all'interno dell'abitazione. E in questa situazione, tra l'altro, al 31 dicembre 2020 15.000 domande di casa popolare erano state fatte nel comune di Milano per 560 alloggi disponibili, quindi delle briciole. Tra questi, disabili, famiglie numerose, persone con difficoltà motorie sono state escluse per l'indisponibilità di abitazioni adeguate a loro. Okay? Quindi tra i vari soggetti di privati con ancora più difficoltà sono stati completamente esclusi. Insieme a questo, a Milano ci sono 7.200 case sfitte, 3.000 inagibili solo tra quelle di edilizia popolare, ok? Senza considerare l'edilizia privata, che va ben oltre, sarebbero comunque insufficienti, ma rappresenterebbero già almeno qualcosa. questo Milano comunque è un mercato privato che è in continua espansione, una canzone diceva un po' come l'universo, e c'è sempre più cemento, i prezzi rimangono i più alti d'Italia e tendono ad aumentare nonostante la crisi pandemica, e ci troviamo di fronte a situazioni con, da un lato, case facenti, dall'altro case di estremo lusso. In un contesto di sì, allora scusate, è sopraggiunto un problema tecnico, proviamo a riandare subito in diretta con il compagno dell'ambulatorio popolare, scusate. Pronto? Sì, scusa, è caduta la linea, perdonaci. Ah, ops. Perdonatemi, dove ero arrivato, mi ero perso. Pronto? No, no, ma proprio 10 secondi fa, cioè sul discorso che stavi facendo anche sulle case. Sì, sì, si è sentito tutto comunque. E nulla, comunque volevo chiudere dicendo che Milano da questo punto di vista rappresenta sulla città un esempio malevolo evidentemente, perché come dicevo da un lato hai un'esagerazione di case fatiscenti, un pugno di case di lusso, anche forse no, molto più di un pugno, una serie di case di lusso e in questa situazione, dicevo, la questura, il comune, la prefettura, nonostante la pandemia, nonostante ci fosse il blocco degli sfratti, è andata avanti senza problemi a portare avanti una politica di sgomberi che rappresentava un problema sicuramente per tutti questi nuclei o singole persone, per tutti i motivi di cui ho parlato prima. Sì, infatti ti volevo dire, tu prima ci riportavi uno studio di quella rivista, insomma, che riguardava Firenze sui numeri di assegnatari, di richieste di assegnazione per le case popolari. Volevo sapere se più o meno questa cosa qui, cioè, si poteva fare una panoramica rispetto a Milano, se avevate anche lì dei dati e se questa cosa, insomma, di sicuro può influire anche su tutto quello che hai detto tu sulla salute, insomma, sulla condizione fisica e mentale allora, delle persone. Dei dati a Milano sicuri non li abbiamo, io ti so dire sicuramente tra per esempio le persone che vengono da noi, capita frequentemente per esempio di avere patologie dermatologiche cutanee, magari di origine micotica, quindi magari dei funghi della pelle, che vengono passati da soggetto a soggetto, ma ripeto, ci capita di trovare veramente, magari l'ultimo è stato sabato scorso, un ragazzo del Bangladesh che ci raccontava appunto quello che vi dicevo, cioè che loro sono in 8 in questo bilocale, hanno una cucina e una stanza dove hanno 2 letti a castello e si alternano per dormire perché non c'è effettivamente uno spazio utile, e pagano a testa queste persone, a quanto ci diceva lui, 150 euro a testa a un soggetto italiano che gliela affitta ovviamente in nero senza contratto a tutti e 8. Sì, poi questa cosa sicuramente influisce. Dei dati effettivi purtroppo non li abbiamo, anche perché gli studi epidemiologici, che sarebbero tra quelli forse più importanti da svolgere in medicina, sono quelli che da un lato vengono meno svolti e sono quelli che richiedono l'accesso ai dati delle, per esempio, ospedalizzazioni, ai dati della distribuzione del consumo di farmaci, che sono dati che hanno gli organismi istituzionali di controllo e che non li rilasciano. A fatica probabilmente li rilasciano anche a istituzioni scientifiche, a noi proprio. Certo. No, poi mi veniva in mente una riflessione che, vabbè, non è su dei dati, però più su un vissuto, diciamo, perché vabbè, io per esempio vivo in un quartiere popolare o comunque dove ci sono case popolari, e pensavo, mi faceva un po' riflettere questo legame molto interessante che avete proposto, come anche gli altri precedenti, tra salute, cura e casa, perché durante questo periodo di pandemia insomma abbiamo visto tante restrizioni e questi appelli molto accorati allo stare chiusi in casa, però quello che vedevamo nei caseggiati popolari era anche che c'erano interi nuclei familiari o comunque tante persone chiuse in, non so, 50 metri quadri in due stanze con magari, non lo so, bambini e bambine che dovevano fare la didattica a distanza, proprio una impossibilità di stare bene nello spazio fisico, e quindi poi magari ci si incontrava in cortile perché le persone semplicemente dicevano non riusciamo a stare in quello spazio, non riusciamo a starci bene, ad avere cura di noi, che può voler dire tante cose, da ovviamente tutto quello che in questo periodo anche riguardava la propria salute o anche la salute intesa in senso più ampio, come ci avete anche fatto capire voi con tutti questi interventi in queste numerose settimane che vi abbiamo sentito. La salute insomma riguarda tanti aspetti e quindi mi viene da dire insomma la casa non conta poco, no, in momenti del genere, perché poi si è riversata su tanti aspetti, da quello psicologico a quello relazionale, insomma è stato molto complicato, no? Non era totalmente indifferente, quindi poi magari venivano anche criminalizzate le persone che magari scendevano un attimo fuori perché proprio fisicamente magari in quella casa non ci riuscivano a stare. Assolutamente, guarda, anzi ribadisco, nel senso, il luogo di vita e l'ambiente esterno in cui è collocata la casa è quella che probabilmente maggiormente influisce sullo stato di salute della persona tra tutte le cause sociali della malattia. Consideriamo che le cause sociali della malattia sono tra le cause principali di malattia. Cause sociali sono più o meno tutte quelle che, appunto, come dicevi, abbiamo raccontato in questi mesi. Mi collego alla questione della pandemia e delle politiche di confinamento e lo dico personalmente, ma penso che dalle riflessioni comunque che abbiamo fatto anche noi in ambulatorio lo condividiamo tutti, le politiche di confinamento attuate in quella maniera barbara e poliziesca durante tutta la primavera scorsa, che si sono susseguite fino a questa primavera, hanno mostrato a maggior ragione quanto effettivamente un luogo in cui si vive è fondamentale per il mantenimento di una salute. Adesso su quello in realtà alcuni dati che escono sono in realtà soprattutto legati, appunto, anche come dicevi, a ragazzi giovani o ragazze giovani, comunque bambini, adolescenti, che per il via dello stare continuamente reclusi effettivamente dentro le quattro mura domestiche, quando queste non sono confortevoli come quelle che ci si può immaginare dalla classica famiglia del Mulino Bianco, ha portato a tutto un aumento di disagi di natura psichica o comunque disturbi psicologici a tutta una fascia di popolazione più giovane. Non si è andato a vedere quanto effettivamente lo stare in casa abbia, influenzando anche poi lo stile di vita delle singole persone, magari cambiato anche alcuni stili, per esempio mi viene da dire alimentari o altro, che poi ricadono e influenzano quindi anche la salute. E non è stato fatto, tra l'altro, una cosa che andava fatta, perché quella di confinare le persone in casa come è stato fatto nei mesi precedenti è un qualcosa che non ha precedenti, e se lo avessero fatto effettivamente solo e unicamente per una ragione sanitaria si sarebbero anche resi conto che era fondamentale all'inizio, dal primissimo momento in cui si applica una misura del genere, andare a valutare quali sono gli effetti di questa misura, perché in medicina qualsiasi pratica che viene messa in campo di tipo terapeutico deve essere commisurata rispetto al danno che può dare. Ora qua nessuno è andato effettivamente a valutare qual è stato il danno causato dai vari lockdown sullo stato di salute delle persone. Tu facevi l'esempio dei ragazzi, prima riportavo quello anche sulla questione psichica, perché è l'unica che un po' tra virgolette è trapelata e sulla quale forse qualcuno adesso qualche ricerca la vuole provare a fare. Sì. Ma su altre questioni, pensiamo a tutti gli anziani che hanno problemi magari cardiovascolari o di natura vascolare, per cui fare quei 10 minuti, quarto d'ora di passeggiata al giorno è fondamentale. Pensiamo a quelle persone che magari hanno un inizio di senilità, per cui uscire di casa e vedere un po' un ambiente esterno, magari un ambiente verde, magari non proprio sempre le quattro mura di cemento, influisce sull'umore e quindi su eventuali poi dopo atti che vengono fatti tra familiari o eventuali persone che se ne prendono cura. tutte queste cose nessuno ha fatto e nessuno farà mai studi, perché non frega un cazzo a nessuno di questa cosa. Sì. Certo. Ok, l'unica cosa che interessava era ridurre i contagi, perché almeno si poteva ritornare a produrre e consumare. Quello era il motivo principale del lockdown. E non una reale motivazione sanitaria, perché ripeto, se fosse stata qualsiasi roba che viene messa in campo come diciamo dinamica di cura, deve essere sempre commisurata, e qua la commisurazione non la si sa quanto effettivamente, cioè qual è stato il costo messo in campo, si sa qual è stato verosimilmente alcuni benefici. Sì, sì, ma la stessa logica... Anche quelli non studiati, ma ipotesi. No, sì, sì, dicevo comunque la stessa logica... Anche su quello però delle ipotesi si potrebbero fare, sono evidenti anche quelle, perché appunto dicevamo... immaginiamoci chi vive in un seminterrato, certo. È stato magari per sei mesi o tutti i vari periodi di lockdown chiuso in un seminterrato a lavorare da remoto, da solo. Perfetto, dai, grazie. Sull'argomento penso siamo stati abbastanza esaustivi. Volevo solo invece ricordare, mi pare che questo purtroppo sarà l'ultimo appuntamento con l'ambulatorio popolare per quanto riguarda con la radio, no? Mi pare che tu... Ma allora... dobbiamo parlare di cultura ancora. La campagna non abbiamo ancora prodotto, diciamo, altre argomentazioni, per cui per adesso no. E se però avete altre questioni, noi rispondiamo sempre volentieri, grazie. Quindi risentiamoci. Sì, è stato un percorso veramente interessante, stimolante, quello che abbiamo fatto con Mala Radio insieme a voi. E poi su questa questione di cui stavamo parlando con te ci torneremo in qualche senso dopo, perché parleremo di sgomberi, anche insomma quello non è un momento che poi non ha ripercussioni, no, sulla vita in generale, quindi anche sulla salute delle persone. E vi ringraziamo a tutte e a tutti tantissimo, è stato veramente un percorso importante per noi, e vabbè, però sicuramente ci aggiorneremo presto da tanti punti di vista. Va bene, grazie a tutti anche per averci seguito, ascoltato, per l'attenzione. Grazie. E per averci chiamato. Grazie, ciao, grazie. A presto. Ciao. Senti, quindi noi facciamo un po' questa alternanza serio-faceto in questa allora, prima puntata. Di parlare, prima di tornare... insomma, volevo la musica, scusa. Ora la mettiamo, però volevo un attimo ricordare tutte le argomentazioni che abbiamo approfondito con certo, i compagni e le compagne dell'ambulatorio popolare, che rientrano all'interno della campagna Quando c'è tutto c'è la salute e vogliamo tutto. Abbiamo parlato di cure, accesso alle cure, politiche sanitarie e sicurezza, casa, ambiente, rispetto per la fragilità, dignità e rispetto, la cultura e lavoro e reddito universale. E ricordiamo ancora una volta il blog dell'ambulatorio popolare, ambulatoriopopolare.noblogs.org. Per chi si volesse recare, l'ambulatorio popolare offre tutta una serie di servizi e si trova in via dei transiti, diciamo all'interno della struttura occupata in via dei transiti a Milano, 28. E niente, va bene, allora torniamo sulla fase un po' più easy e ci sentiamo una canzone che sta molto di, per rimanere in tema sanitario, na, vitamina na, C, na, limone, na, na, na. Un po' amorosa, iniziano i primi amori estivi, ci sentiamo Lemon Tree, The Fool's Garden. Yeah. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing! Da da da da da. here I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. It's just a yellow lemon tree. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Continuiamo con le robe tristi, anche se in questa atmosfera un po' ilare di stasera. E, tanto per continuare anche sull'argomento di cui abbiamo parlato prima, quindi dell'abitare a Milano. Volevamo dirvi che Milano ha guadagnato ben diversi punti PGT oggi, quindi si è riaccaparrato di una sua casa nelle aree periferiche. Infatti uno dei suoi obiettivi per 2030 è proprio andare a lavorare sulla riqualificazione dei territori periferici, quindi che si sta concretizzando con lo svuotare le case dei suoi abitanti abusivi. Quindi stamattina è avvenuto uno sgombero in corvetto di una ragazza che occupava la sua casa, e quindi Milano se n'è riappropriata. E qualche giorno fa in Barone invece. Esatto. In Faenza, ovviamente, esatto, non mi ricordo, esatto, mai. Ma anche perché nel piano di governo del territorio c'è detto esplicitamente, no, che contestualmente agli sgomberi vogliono abolire lo sfitto con una serie di misure anche sui proprietari che lasciano sfitte le case o gli immobili, così abbattendoli entro 18 mesi o comunque acquisendoli, non mi ricordo, esatto, esattamente, delle cose del genere. Quindi Milano ha deciso di riaccaparrarsi anche lui delle sue case abbandonate e lasciarle abbandonate ancora per tanto. In più ha vinto un altro punto PGT oggi, che è quello che riguarda più l'ambiente. Sì, infatti uno dei sgomberano grandi... anche gli animali. Esatto, sgomberano anche gli animali e si riappropriano degli alberi. Milano infatti ha, con il suo progetto di Forestami, ha l'obiettivo di piantumare tantissimi nuovi alberi, però ovviamente questo costa fatica, appalti, eccetera, quindi se qualcuno l'ha fatto per loro, qualcuno l'ha fatto per lui, perché non prenderselo da solo? Insomma, stamattina oltre ad una casa hanno sgomberato anche un terreno che era occupato da 30-40 anni prima dal padre, poi da questo pastore che si è dedicato tutta la vita alla cura di questo, del suo terreno e degli animali che ci vivevano. E questa mattina la polizia è andata a togliergli questo terreno e a portargli via tutti gli animali. Appunto, c'erano anche diversi alberi in questo territorio e niente, un'altra vita spezzata anche oggi. Finito il momento tristezza anche per il bollettino di questa settimana, o forse no, chi lo sa? Forse no, forse dopo ne parleremo, ma dal momento tristezza passiamo al momento super DJ set, really funny, e ci sentiamo Wanna Be delle Spice Girls. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real? Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna say the same. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. Who doesn't come for free, she's the real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down. Wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta stop. Make it last forever. Allora, le 21:20, momento divertente finito, ora parliamo di cose serie. Partiamo con una buona notizia una volta ogni tanto. Abbiamo parlato in queste ultime settimane molto di sorveglianza speciale, di come le varie procure in Italia stiano iniziando ad utilizzare sempre di più questa misura preventiva e repressiva nei confronti di compagni e compagne in Italia presenti nelle lotte in maniera quotidiana. Abbiamo appunto parlato con compagni di Torino, abbiamo avuto degli aggiornamenti da Firenze, da Genova tra l'altro arriva una notizia che è stata richiesta un'altra, quindi una terza sorveglianza speciale. A Firenze invece a quanto pare hanno rigettato, questa è la notizia di ieri, hanno rigettato la richiesta di sorveglianza speciale per una compagna che era stata arrestata per gli scontri del 30 ottobre 2020, quando molte persone si sono riversate in strada contro tutte le misure restrittive, tra le quali il coprifuoco, atte ad arginare l'emergenza pandemica del Covid. E settimana scorsa abbiamo appunto letto un estratto del comunicato dei compagni e delle compagne di Bologna, che sono state bersagliate anche loro con 7 richieste di sorveglianza speciale all'indomani, tra virgolette, a livello temporale, del quasi fallimento dell'operazione Ritrovo. Questa sera, al posto di fare un'intervista, per una volta abbiamo in presenza qui nella Fornace Milanese, ricordiamo sono le 21:22, ci sono 30 gradi, un compagno di Bologna, e volevamo parlare appunto con lui di questa situazione, insomma delle richieste che sono arrivate a Bologna e di alcune loro considerazioni. Ciao, allora, la cosa è questa, il 12 luglio avremo quest'udienza per le sorveglianze speciali, siamo in 7, 7 tra compagni e compagne che erano già stati inquisiti nell'operazione Ritrovo, come hai ben detto te, che è attualmente naufragata quantomeno per quello che concerne sia il riesame che la cassazione del riesame, quindi ha ricevuto sicuramente una battuta d'arresto considerevole. E pur tuttavia, come sta succedendo piuttosto spesso, ormai direi che è una tendenza che si può fotografare anche in varie altre città, come peraltro dicevi prima, praticamente sulle stesse identiche elucubrazioni stanno cercando di applicarci questa misura. In questo caso si tratta di una misura qualificata, ossia la sorveglianza speciale sul tecnico può essere o generica, cioè richiesta per una pericolosità sociale, o qualificata. In questo caso sarebbe per terrorismo e quello che chiedono è 5 anni per ciascuno, quindi direi che è una roba abbastanza considerevole. Ora, questo è un po' il fatto. Tutte le udienze saranno appunto il 12 luglio e sì, forse un po' la cosa su cui riflettere è come la repressione si stia spostando verso queste misure che paiono meno afflittive, sono oggettivamente meno afflittive, ma producono risposte assolutamente più blande rispetto a quello che muovono, e da questo punto di vista secondo me l'operazione di Trovo è stato un esempio importante, anche in cui effettivamente del peso sulla faccenda si è collettivamente riusciti a metterlo, anche perché anche a partire dagli errori loro, ma che appunto sono errori che secondo me nascono dal fatto che per loro fondamentalmente è un lavoro, quindi cioè, schiacciare le nostre vite, le nostre lotte è un qualcosa che fanno senza neanche impegno, visto che lo Stato fornisce loro tutta una serie di strumenti atti a farlo. E, insomma, il problema grosso di queste misure forse è che noi dovremmo fare lo sforzo di pensarle come un qualcosa di particolarmente afflittivo, nella misura in cui riescono a spezzare dei legami, fermare dei contesti di lotta o comunque di critica radicale, senza suscitare quel moto di indignazione che altri tipi di misure cautelari, penso alle carcerazioni ovviamente, muovono. E penso che vengano scelte per questo, e sì, insomma, un po' su, credo che sia una tendenza, anche obblighi di dimora che si protraggono all'infinito, ecco, e credo che più in generale sia qualcosa che si lega ad un clima che è quello di un progressivo innalzamento della repressione rispetto ad anni fa. Sarebbe stato impensabile immaginarsi associazioni a delinquere per i portuali a Genova, associazioni sovversive per chi denuncia le complicità di Confindustria a Bergamo e tutta una serie di cose pure sciolta. Penso a quello che è successo ai facchini di TNT. Insomma, cioè, io credo che ci sia un quadro, cioè la repressione contro gli anarchici, tanto più come hanno la roba un po' peculiare sia di queste sorveglianze che dell'operazione Ritrovo, e che hanno insistito tantissimo sulla natura preventiva, con veramente un certo qual grado di non imbarazzo nell'ammettere una cosa. Cioè, io do per scontato che cazzo degli sbirri o dei pubblici ministeri facciano questo tipo di ragionamenti. Ora, che in una società che si dice democratica lo esplicitino in maniera lampante e senza remore, è un qualcosa che deve far riflettere, non perché le cose non stiano così o perché uno si aspetti delle garanzie. Anzi, uno, cioè, da un certo punto di vista, questi giocano a carte scoperte, va pure bene. Però, ecco, la tracotanza con cui possono permettersi di dire che esiste, hanno paura di un conflitto sociale, e in virtù del conflitto sociale di cui hanno paura per le magagne loro e dello Stato che devono difendere, preventivamente scelgono di colpire dei compagni che lottano. Ecco, questa cosa qua credo che sia evidente. Sì, diciamo che a livello generale si è abbassata la soglia della repressione a livello qualitativo, nel senso che succedono cose sempre di minore intensità, ma loro provano a spararla grossa, tra virgolette, con associazioni, come detto tu, terroristiche, associazioni a delinquere per fatti, come si possono definire anche in gergo legale, bagatellari, molte più delle volte. Molte volte gli va male e quindi dopo passano al livello successivo, che come hai detto tu è la cosiddetta repressione a bassa intensità. Queste misure cautelari o preventive che sono meno afflittive, ma fino ad una certa, perché comunque la sorveglianza speciale, ricordiamo che all'inizio può anche predisporre l'obbligo di dimora con il rientro notturno, proprio domicilio, con il ritiro della patente volendo, e tutta un'altra serie di restrizioni, tipo non incontrare pregiudicate o persone con i pregiudizi, non frequentare le bettole, essendo stata scritta poi durante il codice Rocco, ecco, c'è la definizione di bettole, ovvero i bar dove vanno i delinquenti abituali, eccetera, e quindi questo può essere una cosa abbastanza pesante a livello di, se mi si concede il termine, di tagliare le gambe ai compagni e alle compagne che la potrebbero subire, anche per una certa sorta di vicinanza, cioè ci si deve proprio ingegnare per cercare di non perdere tutti i rapporti e i legami che uno ha costruito nel corso degli anni. Giusto per fare un'analogia, la stessa tipologia di sorveglianza speciale, più o meno, ovvero partendo da una misura, cioè da un 270 che poi è stato rifiutato, anche se voi poi effettivamente siete stati incarcerati, si è svolta a Genova nei confronti prima di una compagna e poi anche di altre due compagne che erano all'interno di alcuni 270 che il PM ha provato a porre sui tavoli dei giudici, e il giudice ha rifiutato sin da subito l'applicazione delle misure. Con una compagna c'era stata richiesta di 5 anni e poi sono passati 2 anni, e questo appunto per far mostrare come si stanno muovendo, provano a dare i 270, non ci riescono, poi ci provano con le sorveglianze speciali. Questo era giusto un appunto. Ah sì, ma esattamente come dici te, cioè diciamo che di fronte alle loro sconfitte giudiziarie tentano di far entrare dalla finestra quello che non gli è stato fatto entrare dalla porta. Questa è un po' la ratio. Forse ecco, un'altra cosa che secondo me è peculiare di quelle di Bologna è che molto, cioè, sia non hanno nessuna remora nel parlare dell'aspetto preventivo, che anche a mettere direttamente sul piatto la solidarietà. Cioè, così come l'operazione è scattata apertamente per il sostegno che si dava alle rivolte in carcere. Io ricordo che insomma a Bologna la Dozza a marzo ha preso fuoco, e questa cosa qua è stata una roba, sono stati bruciati 2 blindati, cioè era una cosa che comunque dalla città si vedeva il fumo nero, quindi diciamo che tanta gente che avesse un minimo di sensibilità etica è venuta lì sotto e ha fatto quello che poteva in solidarietà con chi era rinchiuso. E quindi la solidarietà direttamente è una delle cose sotto attacco, sia rispetto appunto al carcere più in generale, che anche la solidarietà rivoluzionaria verso i compagni anarchici accusati di strage, accusati di insomma di associazioni sovversive, per cui si configurano i reati di terrorismo. Ecco, questa cosa qua provano a, cioè, vogliono spezzarla, e costituisce di per sé un qualcosa di, secondo loro, di criminoso. Io poi su questo vorrei dire, cioè, secondo me è un problema dei democratici decidere che cosa sia criminoso, che cosa sia perseguibile o meno. Noi quello che possiamo fare è leggere il contesto, cioè quindi capire che effettivamente il margine del consentito si abbassa appunto la repressione mantiene uno standard a prescindere dalle capacità dei compagni, dei movimenti, dei contesti di mettere in campo delle cose significative per contrastare i progetti dello Stato, del potere, insomma in generale tutte le nefandezze che ci infliggono. E sì, però la repressione rimane alta. Io credo che quello che sta invece, cioè, ovviamente noi paghiamo sulla nostra pelle questa cosa qua, quindi non è un menefreghismo, è solo che non è affar nostro decidere cosa sia, cioè se questi a un certo punto decidono che nel loro Stato democratico si finisce in galera per la solidarietà, e sti cazzi, cioè è un problema di chi in quello Stato democratico ci crede, non nostro, che sappiamo perfettamente che quello Stato serve per mantenere dei privilegi e dei rapporti di sfruttamento. Quello che secondo me è invece nostro compito è far sì che queste cose non passino sotto silenzio, e quindi boh, insomma, ci saranno un po' di iniziative in merito. Vabbè, così domani saremo in Piazza l'Unità, c'è cioè un concertino e sarà anche un'occasione per ribadire questa cosa. Con un po' di compagni su queste cose qui ci si sta provando a vedere, a discutere, a confrontare. E sì, credo che anche per il 12 luglio verranno lanciate lanciata un'iniziativa senza chissà quali pretese, però insomma, ecco, far sì che insomma, ci sia dell'attenzione su queste cose qua, perché lo scopo di questo tipo di misure è proprio quello di farle passare in sordina e che la percezione sia che se uno è in sorveglianza speciale è una sua sfiga personale. Questa cosa qua dovremmo fare lo sforzo di contrastarla come atteggiamento mentale, ecco. Ok, perfetto. Penso vada bene a tutti. Se non ci sono domande dagli altri compagni di Mala Radio, super esaustivo. E vabbè, parlando insomma di presidi, volevamo ricordare che martedì 15 giugno alle ore 18:30 c'è stato in piazza Caricamento a Genova sempre un presidio contro la sorveglianza speciale. E niente, va bene, ti ringraziamo della grazie tua presenza a voi. In diretta, sei stato il primo ad essere in diretta. Wow! Stato, quindi... e niente, quindi... Aspetta, c'è un'aggiunta. C'è un'aggiunta, però se... ah, ok? No, volevo fare un'aggiunta brevissima e magari già nota agli ascoltatori, visto che la facciamo spesso. Però la sorveglianza speciale è comunque... Ci sono stati anche dei casi, cioè qua a Milano abbastanza noti, e, diciamo non su compagni, ma ad esempio nel caso di San Siro, quando c'era stato, diciamo, quel tafferuglio in occasione del video di Ney Maezza, poi dopo le perquise, i fogli di via, eccetera, eccetera, sono state fatte anche delle richieste di sorveglianza speciale per alcuni dei ragazzi lì presenti, che secondo me è una cosa da tenere in considerazione rispetto a come proprio vengono gestite le persone in termini di pericolosità sociale, no? Che va dai compagni come dai ragazzini nelle periferie, nei quartieri popolari, tutto ciò che può essere, diciamo, sopra le righe, in un'infinità di modi viene rimesso al suo posto tramite appunto questa misura, ma poi anche tutte le altre, non è, cioè, un foglio di via, per quanto sia amministrativo, può essere comunque una cosa antipatica, non... però niente, volevo lanciare questa piccola riflessione. La teppa ribelle in sostanza non piace allo Stato e quindi colpisce con la sua mannaia. Va bene, ora ci sentiamo un'altra di quelle canzoni di Mala Radio, stile balneare. Venga Boys, boom boom boom boom. Bentornati e bentornati su Mala Radio. Come avete capito, questa sera stiamo un po' alternando momenti di svago e di canzoni estive un po' trash, vabbè, invece riflessioni e discorsi importanti o in alcuni casi insomma anche pesanti. Abbiamo parlato di sgombri nella città di Milano, abbiamo parlato delle richieste di sorveglianza speciale in giro per città di, insomma, per varie città d'Italia, ce ne sono state. Insomma, diciamo che è un po' una puntata che ricorda la metropoli con i suoi contrasti molto forti. E adesso rimaniamo su una questione importante, sulla questione del carcere, e ci ricolleghiamo in tanti aspetti a quello che si diceva prima rispetto alla sorveglianza speciale, soprattutto rispetto al discorso del fatto che la repressione si muove sempre di più su un discorso che volutamente anche esplicita di prevenzione, ed è un discorso insomma che anche nel periodo della pandemia è stato fatto in maniera molto esplicita per la paura di un conflitto sociale. Le condizioni economiche insomma sarà ancora da vedere quanto peggioreranno dopo come è stato gestito tutto il periodo della pandemia. E sulla questione della solidarietà, insomma, c'è stato anche lì una stretta molto forte, si è cercato di spezzare in ogni modo i legami tra chi lotta, che sia tra chi si ritrova nei quartieri popolari, che si è assegnata ma magari non si riesce più a pagare l'affitto, quelli che vengono da popolari alla polizia, tutti cercano insomma hanno cercato di spezzare la solidarietà tra chi tra le persone che già la società divide con delle alte mura, come le persone che si trovano dentro le carceri o dentro la permanenza per il rimpatrio. E adesso dedichiamo proprio un momento appunto a parlare di carcere. Come forse saprete tutte e tutti, nel marzo scorso quasi tutte le carceri d'Italia sono state teatro di rivolte di entità più o meno grande, da incendi a battiture a tentativi di evasioni, persone che sono salite sul tetto, insomma scenari che non si vedevano veramente in Italia da tantissimi tantissimi anni, a detta anche di chi c'era a quelle lotte ha preso parte. E quindi partendo insomma da fare questo brevissimo aggiornamento sul fatto che appunto in questo periodo c'erano state tante rivolte, vi diamo una buona notizia, che nel carcere di Frosinone c'era stata una rivolta proprio nel periodo di marzo, e i 21 detenuti che erano a processo per questa rivolta sono invece c'è una notizia pesante, perché insomma, come si diceva prima, non è che c'è troppa fiducia o nessuna fiducia nelle varie istituzioni democratiche, tantomeno nei tribunali, però insomma qualche rilievo bisogna pure darlo anche a come vengono gestite alcune questioni rispetto ai morti di Modena. 14 morti nel carcere di Modena, nei trasferimenti avvenuti dal carcere di Modena ad altre carceri nel marzo dell'anno scorso. E stamattina a Modena il GIP ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo alla morte di 8 persone detenute avvenute in seguito all'8 marzo. Quindi 8 persone di origine straniera per le quali, rispetto alle quali non sapremo mai quello che è accaduto, cosa è successo. Della loro morte. Infatti resta aperta solo l'indagine per la morte di Sasà Piscitelli, e vogliamo ricordare che a fine novembre scorso 5 persone detenute nel carcere di Ascoli avevano fatto con molto coraggio un esposto alla procura di Ancona. In questo atto avevano riportato quanto accaduto a marzo nel carcere di Modena e di Ascoli in seguito alle rivolte, in relazione ai pestaggi, agli spari e alla morte di Sasà. Quindi ecco, mentre l'indagine per la morte di Sasà Piscitelli va avanti, rispetto a tutte le altre morti, il GIP ha disposto l'archiviazione e sappiamo che insomma Modena, dintorni, ma anche come un po' in tutta Italia si erano mossi solidali, ma anche in prima persona i familiari delle persone che erano state coinvolte in queste morti atroci, che avevano visto morire davanti a loro dei compagni di cella o avevano subito assistito a dei pestaggi, e si erano mossi i familiari, si sono mossi dei comitati, ci sono stati in questi mesi tanti presidi sotto alle carceri e insomma appunto magari nessuno cerca più di tanto la verità o la giustizia in un tribunale, però è anche significativo che poi si voglia insabbiare tutto, no? Sì, che come al solito lo Stato si autoassolve, e la cosa ovviamente non ci sorprende, perché quello che fa sempre, cioè non avrebbe motivo di cercare giustizia contro se stesso, posto che ovviamente la giustizia non la cerchiamo nei tribunali, però ecco, è un dato di cui tenere conto. Sì, assolutamente, anche proprio rispetto il coraggio di chi ha fatto venire fuori queste storie, pur essendo in una condizione purtroppo di totale ricatto, come magari chi si trova in una cella e poi magari viene trasferito o pestato o privato di anche le poche cose che si possono avere in carcere solo perché ha cercato di far venire fuori quello che è successo. Noi cerchiamo sempre di riportarvi le voci di chi purtroppo non le può far uscire direttamente. Qui a Malaradio abbiamo letto lettere di detenute e detenuti che ci raccontavano cosa succede dentro, che portavano avanti le loro battaglie tramite scioperi della fame, battiture, cercando magari un legame, un'unione tra loro. E spesso abbiamo avuto modo di appunto leggere o riportare delle voci, cerchiamo di farlo sempre dalle carceri o dai centri di permanenza per il rimpatrio, e insomma quindi uno degli scopi di questa radio è proprio cercare di dare voce a chi non ce l'ha. E ora continuiamo un po' con il nostro umore altalenante e torniamo ad ascoltarci di nuovo una canzone molto molto trash, cioè, però anche storica, sì, cioè abbiamo addirittura Britney Spears e la Madonna. Baby One More Time. Oh, Eccoci tornati a Mala Radio dopo questa nuova grande hit, anzi vecchia grande hit, e vi parliamo di un'iniziativa che ci sarà questo weekend, per noi molto importante perché appunto riguarda i cambiamenti che vedranno Teatro Milano nei prossimi anni. E infatti si parla di Olimpiadi. Nel 2026 infatti Milano ospiterà le Olimpiadi Invernali Milano Cortina, che sono appunto uno dei cosiddetti grandi eventi che solitamente con il suo arrivo porta a delle conseguenze che poi rimangono indelebili nei territori cittadini, urbani. Nonostante ci siano sempre delle differenze in base ai territori in cui si trovano questi grandi eventi, le conseguenze sono spesso molto simili, quindi l'aumento del controllo, la corruzione finanziaria, la degradazione dei luoghi, degli ambienti originari, dislocamento di persone che abitano la città e i quartieri scelti per ospitarli, e non di meno anche poi gli scheletri che lasciano, i buchi, anzi i crateri nei bilanci delle città, dei paesi che ospitano questo grande evento, quindi che poi determina appunto anche dei cambiamenti proprio irreversibili. Sì, infatti al netto della scelta musicale, però in verità le cose di cui stiamo parlando stasera poi si richiamano a vicenda, no? Perché in realtà la questione, per esempio, degli sgomberi delle case popolari non è aliena da questo discorso, no? Cioè Milano per eccellenza proprio vuole essere la città degli eventi, grandi o piccoli che siano, e però queste trasformazioni così grandi a livello proprio urbano poi hanno un impatto. Sì, stasera siamo un po', insomma, sulla strada, diciamo, a trasmettere, quindi se magari sentite dei rumori bizzarri, Bocciare. Non vi inquietate. Però, come diciamo sempre, è bello della diretta. Esatto. No, però dicevo sì, che poi anche una questione come quella degli sgomberi delle case popolari, ma ce ne sono molti altri, ovviamente, anche se uno non vive in una casa popolare o in occupazione, sicuramente può vedere cambiare la sua zona, magari salire tutti i prezzi degli esercizi intorno. Beh, vederli infatti, cambiare. Per esempio Expo 2015 è conosciuta come uno spartiacque proprio degli affitti, dell'innalzamento degli affitti a Milano, cosa certo. Che probabilmente accadrà anche con le Olimpiadi. E poi anche proprio la modalità dell'evento, no? Cioè c'è una massa di persone che vengono proprio a usufruire, a consumare la città in sé per sé, poi se ne vanno, e poi però invece quello che resta l'abbiamo visto appunto a Milano dopo Expo, ma in altre città dopo le Olimpiadi, per esempio città sia europee che non. Infatti verrà trasmesso anche un film giusto a questa iniziativa. Esatto, nel film, il film si chiama Historia do Futuro, è una specie di film documentario girato in Brasile, a Rio de Janeiro, dove nel 2016 ci sono state le Olimpiadi, ed è raccontato appunto dalle voci di alcuni personaggi che, non so, si sono visti distruggere la casa, per esempio, per fare spazio ad uno degli edifici olimpici, oppure appunto che sono stati dislocati. E certo, il Brasile è anche geograficamente molto diverso da noi, si trova proprio in un'altra parte del mondo, quindi i temi saranno diversi, ma si possono comunque ritrovare delle similitudini. Verrà a parlare anche il regista, che ci racconterà appunto della sua esperienza, perché è un regista che ha parlato anche delle Olimpiadi che ci sono state a Londra, per esempio, anche su quello ha girato un documentario, quindi diciamo ha studiato proprio l'avvento di questi grandi eventi in diverse parti del mondo. E appunto anche perché si pensa, no? Si parla sempre di Olimpiadi, poi si nomina il luogo e poi si nomina l'anno, quindi in questo caso il 2026, quindi sembra che nel 2026 accadranno tutte queste cose, in realtà questi processi avvengono anche adesso, giorno per giorno, sono già iniziati, e in più appunto arrivano, certo per le Olimpiadi arrivano quantità esorbitanti di soldi per creare l'evento, in realtà però tutti questi soldi verranno impiegati per dei progetti che comunque si sposano con la tendenza che è già quella cittadina, infatti molti obiettivi seguono proprio pari pari il PGT di Milano 2030. Quindi ci sembra molto importante anche cominciare ad osservarli, perché tante cose come gli sgomberi passano in sordina, oppure il cambiamento dei servizi, quindi ci sembra molto importante adesso ritrovarci e cominciare a parlarne anche per... Assolutamente, cercare di non arrivare troppo impreparati, visto che sembra che il governo, Milano, il comune lo siano moltissimo, che non vedano solo l'ora che arrivi tutta questa marea di soldi, di investimenti, di cambiamenti, che però appunto sappiamo che poi possono stravolgere la vita veramente delle persone che qui ci abitano. Esatto, o costringerle ad andarsene, e nessuno qua se ne vuole andare obbligato da questa gente. No, volevo aggiungere una piccola cosa, che appunto i cambiamenti, soprattutto in una città come Milano, sono velocissimi e difficilissimo stare al passo, perché talvolta sembrano anche solo minimi, un piccolo cantiere che spunta, passi una volta in bici, te ne accorgi e non ti fai alcuna domanda, no, rispetto a quello che può significare. Però appunto, come dicevate prima, fa parte di una tendenza molto più ampia, che è quella di cercare di assestarsi anche rispetto ai trend delle città europee come Londra, Parigi, no? Quello è l'obiettivo che ha Milano piuttosto che Roma come città italiana, e lo si vede anche in una serie di eventi, che sia dal Salone del Mobile ai vari eventi di videogiochi, arte, eccetera eccetera, sono tutti finalizzati sia ad avere soldi ma anche a espandersi a livello cittadino e territoriale, no? Nel senso, Tortona una volta, cioè, sto un po' divagando, però Tortona una volta non era così, adesso è diventata appunto la via simbolo del Salone del Mobile. E questa riflessione per giungere al fatto che comunque su alcuni quartieri i soldi che stanno mettendo, gli investimenti, non sono pochi, da la zona appunto Corvetto, Porta Romana, tutta la situazione di Fondazione Prada, ma anche in Giambellino sono stati appena messi 80 milioni, quindi il cambiamento... Certo, ma tra l'altro quello che stavi dicendo tu mi ha fatto venire in mente che effettivamente, e questo per poi introdurvi anche dove avverrà questa iniziativa, si tratta proprio anche di crearsi nuovi luoghi dove speculare, no? Perché comunque, per esempio, questa iniziativa avverrà in Piazzale Lodi, proprio adiacente, in un praticello adiacente allo scalo di Porta Romana, e luogo che prima non poteva rendere perché faceva parte della proprietà delle Ferrovie Italiane, e quindi e adesso invece è stato svenduto per tutto il progetto di riqualificazione degli scali ferroviari. Così un'altra porzione del territorio può rendere profitto. Quindi, vabbè, comunque di tutte queste cose ci sarà occasione, speriamo, di parlarne sabato. Dalle ore 19 ci sarà un aperitivo, poi una piccola discussione, e infine, visto che il buio arriva un po' più tardi, proietteremo Storia do Futuro. Ci vediamo lì. Adesso ci ascoltiamo in tema una canzone che si chiama proprio Fuck the Olympics. Fuck the Olympics, di yeah. Compassion Family. We'll be right back. The Olympics. Fuck the Olympics. The Olympics. Bentornati a Somma la Radio dopo questo supplizio di canzone. Niente, volevamo segnalare che sul fronte della logistica è successo un fatto molto grave settimana scorsa, ovvero che l'azienda della FedEx di Castel San Giovanni a Piacenza, provincia di Piacenza, ha assoldato dei picchiatori che hanno letteralmente massacrato i lavoratori che stavano facendo picchetto fuori dalla fabbrica. E questo non è nient'altro che un ripetersi di azioni iniziate 3 anni fa con l'uccisione del sindacalista morto a Piacenza, Soumaila Sakho, andando avanti poi con altre azioni che il padronato ha fatto contro questi lavoratori. Questo vuol dire che dove c'è conflitto il padrone non ci sta e reagisce di conseguenza. Ci sono stati anche altri casi, ieri a Prato c'era un picchetto fatto da diversi sindacati di base e gente assoldata da questa Prato in Toscana, e sono andati a bastonarli e a lapidarli proprio coi sassi, e tre di questi lavoratori che tenevano il picchetto sono finiti al pronto soccorso. Quindi credo che sul fronte lavoro si stia mettendo molto male, oltretutto con la probabile fine del blocco dei licenziamenti, che sarà a partire dal 30 di giugno. Quindi dal 1 di luglio si sentiranno sicuri di poter licenziare come e quando vogliono, e soprattutto offrire contratti senza diritti, e soprattutto con in mano a agenzia di lavoro interinale. Comunque, dopo questa giusta digressione su quello che era successo a Piacenza e anche in giro per l'Italia, possiamo andare avanti con cosa? Allora, prima di andare avanti, volevamo ricordare come al solito il nostro numero di telefono, che è 351-918-2889. Se volete scriverci potete farlo tramite Telegram, tramite Signal. Ricordiamo anche il blog, che è malaradio.noblogs.org. Potete scriverci alla mail malaradio@autistici.org. Sì, sul blog trovate sia tutti i podcast delle puntate precedenti che le varie iniziative che ci sono a Milano e dintorni. Allora, a Milano fa caldo, sono le 22.08. Scusate, ho sbagliato una cosa. Abdel Salam si chiamava il compagno ammazzato a Piacenza, era doveroso dirlo, scusate. Ok, fa sempre più caldo, quindi proviamo a mettere un clima un po' più fresh con un altro pezzone degli anni 90. Yeah, qual è? Chi sono? I Backstreet Boys, scusate la pronuncia, Everybody. Addirittura. Yeah. Bentornate, bentornati su Mala Radio e come di consueto vi diremo alcune iniziative che si svolgeranno a Milano o in altri luoghi se sono, insomma, iniziative molto importanti. Noi cerchiamo sempre di raccoglierne il più possibile, però prima vi abbiamo dato numero, indirizzo mail, quindi se volete farci sapere un'iniziativa che possiamo comunicare in radio, scriveteci. Cerchiamo proprio di diffondere il più possibile, anche di insomma, di sottolineare dei collegamenti tra le varie questioni di cui si discute. E quindi iniziamo con lunedì 21 giugno alle ore 17 ai Giardini Primo Moroni. Un titolo dell'iniziativa significativo: anche per quest'anno la scuola è finita e quindi si festeggerà la fine dell'anno scolastico. Ci sarà alle ore 15 il ritrovo per la pulizia del giardino e poi alle ore 17 con coperte, roba da mangiucchiare, merende insieme a bimbi, bimbetti, mamme e papà, insomma chiunque voglia partecipare. E vi ricordiamo che proprio la puntata scorsa avevamo sentito qualcuno che ci raccontava le questioni che ci sono al momento intorno a questo giardinetto, che è sempre stato aperto e è sempre stato frequentato da chiunque volesse andarci. Ora insomma vi abbiamo raccontato che c'erano invece dei progetti su questo giardinetto che stanno un po' nella logica di cui vi dicevamo prima, insomma di cambiamenti della città. Poi, per spostarci su un po' un altro tema, ci sarà un cinema Antifa con ben tre date. Il 23 giugno alle 21 verrà proiettato Jojo Rabbit al Parco Baden Powell. Il 30 giugno, sempre alle 21, ci sarà al Parco Solari Banditi a Milano. E il 7 luglio alle 21 Chasseur de Skin a Parco Conca del Naviglio. Per continuare con le iniziative, vi segnaliamo domani 18 giugno alle 18 un dibattito sulla repressione dei rivoluzionari prigionieri e con concerto in solidarietà a Pablo Hazel con rap Cavarna Posse, Pavia Male e Beppe Rebel. Questo sarà fatto in nell'ambito della festa di riscossa popolare del 18-19 giugno in via al GTA in via Lelio Basso 7 a Milano. Ci si arriva col tram 3 e 15 Grato Soglio, certo. Poi 26 e 27 giugno al Fo' Boccaccio, La Volpe e l'Uva, Critical Wine di Monza e Brianza, con ovviamente sempre un po' il motto il boccaccio non si tocca, vinaioli da tutta Italia, mercato contadino a filiera corta, workshop, laboratori per bimbe e bimbi, musica. E potete trovare il programma completo su boccaccio.noblogs.org. L'indirizzo è via Rosmini 11, Monza. Il 19 giugno appunto ci sono, come abbiamo già detto prima, ci sarà quell'iniziativa in Piazzale Lodi con proiezione di Storia da Futuro sul tema delle Olimpiadi e, dalle 19 aperitivo, poi discussione ore 20 e 21:30 invece ci sarà la proiezione. Ma prima in Baronata in Viale Faenza 12-7 ci sarà dalle 17 la presentazione dell'opuscolo ma la gestione del patrimonio pubblico di Haller e poi dalle 18 più o meno alle 22 ci sarà la pizzata popolare alla Barona, che sarà benefit per le spese legali contro la repressione. E venerdì 25 giugno ci sarà la marciona queer trans femminista a Milano, ma il luogo è da definire, sarà alle ore 17. Per informazioni potete guardare marciona.noblogs.org e potete anche scrivere a info.marciona@inventati.org. E vabbè, e per chi non si troverà a Milano ma magari sarà nei pressi di Roma, ricordiamo, visto che ci sono stati visto tutti i picchetti dei lavoratori e gli attacchi che hanno ricevuto negli ultimi mesi, sabato 19 giugno ci sarà una manifestazione nazionale a Roma dalle ore 14 in Piazza della Repubblica organizzata dai Sicobas. Ok, siamo anche stasera in chiusura. Volevamo ricordare che con Mala Radio siamo arrivati in doppia cifra, questa è la decima puntata, è la penultima puntata stagionale. Probabilmente giovedì prossimo faremo una puntata in diretta in strada. Ancora dobbiamo capire dove, come e quando, ma ve lo diremo e vi faremo arrivare, insomma, la notizia. E quindi niente. Ma adesso? Adesso dov'è che andiamo? Ma adesso intanto salutiamo tutti e tutte gli ascoltatori e ascoltatrici della radio. Ricordiamo il blog, che è malaradio.noblogs.org. Ricordiamo anche la mail alla quale potete scriverci, che è malaradio@autistici.org. Ricordiamo il numero di telefono 351 91 82 889, e potete scriverci sia su Telegram che su Signal. E ora dove andiamo? Dove siccome andiamo? Inizia a fa caldo caldo, no? E siccome la Selecta oggi è stata un po' estiva, un po' fresh, un po' estiva, e lo sarà ancora di più nell'ultima puntata in diretta in strada, dove speriamo di far ballare le persone che ci fa merbotto, perché poi sono due le opzioni: o ballano o ci tirano i pomodori. Esatto, esatto. Quindi speriamo che non ci tirano i pomodori, che perché dopo li usiamo per, esatto, per fare la scarpetta, sì. C'è la campionessa. C'è la campionessa qua che rimane ignota, non sveliamo chi è. E niente, no. Siccome fa caldo, ci sono ancora più di 25 gradi, noi vorremmo tanto, tanto, tanto andarcene al mare. Per chiudere ci sentiamo Vamos alla Playa di Miranda. E ci rivediamo giovedì prossimo, sempre in diretta con Mala Radio dalla Fornace Milanese. Buona serata a tutti e tutte. Ciao! Vamos a la playa.